Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Oh, vorrei tanto che tu ricordassi i giorni felici che abbiamo vissuto insieme. Così parte la poesia di Jacques Prévert che vi leggerò oggi, Le foglie morte. La conoscete? Abbiamo deciso insieme, cioè, ovvero ho deciso insieme a voi, sperando che questa decisione vi piaccia, di ripartire dai classici, leggere i grandi classici della poesia per rimanere in tema con quello che fa allineamenti, nonostante si ricerchi sempre di sportare qualcosa di nuovo, qualcosa di proprio, qualcosa di nostro. Io voglio portare Le foglie morte di Jacques Prévert, una canzone che conoscete sicuramente, visto che è stata un tormentone delle ultime estati, e lui è stato un tormentone delle nostre vite, perché Fabio Fibra, dagli Uomini di Mare a quando si è venduto al commerciale, sempre comunque inventato passi che ci hanno fatto cantare e rimanere nella nostra testa come delle vere droghe. Io voglio leggervi Le foglie morte perché voglio ricordare proprio quando erano i giorni felici di quando eravamo amici. Io non so voi come sta andando con questa vita comasca, ma rispetto a quando andavo alle superiori, al liceo, e uscivo il pomeriggio, giravo per Como, facevi lo sport, facevi il cazzeggio, il tempo libero, il teatro, quello che vuoi, sentivo che c'era energia. Adesso tutti quelle belle persone che conoscevo sono chi a Milano, chi a Lugano, chi invece proprio non è nel perimetro, ovvero se n'è andato, da chi va a Roma, chi va in Brasile, chi va in Israele, chi va da tutte le parti tranne che rimanere qua. E allora mi dedico a loro anche questa poesia, ricordando quanto ci siamo divertiti, e questo ricordo spero che sia un auspicio ai ragazzi che sono qui a Como oggi di continuare questo percorso, cercando di pensare a una via alternativa, ovvero come fare a non lasciare la nostra bellissima città e come renderla una città per giovani. Io ora vi lascio con Fabri Fibra, stavo pensando a te, e questo te che è un po' come il mio tatuaggio che ho sul polso in alto a sinistra, è proprio dedicato a te, la persona fisica più a fianco a me, anche quando non è presente. Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando a te. Che figata andare al mare quando gli altri lavorano. Che figata fumare in spiaggia con i draghi che volano. Che figata non avere orari, né doveri o pensieri. Che figata tornare tardi con nessuno che chiede doveri. Che figata quando a casa scrivo, quando poi svuoto il frigo. Che fastidio sentirti dire sei pigro, sei infantile, sei piccolo. Che fastidio guardarti mentre vado a picco, se vuoi te lo ridico. Che fastidio parlarti, vorrei stare zitto, tanto ormai hai capito. Che fastidio le frasi del tipo, questo cielo mi sembra dipinto. Le lasagne scaldate nel micro, che da solo mi sento cattivo. Vado a letto ma cazzo è mattina, parlo troppo non ho più saliva. Promettevo di portarti via, quando l'auto nemmeno partiva. Perché mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando a te. Non avremmo mai dovuto lasciarci.